Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sotto attacco. Ecco come oramai da mesi mi sento. Seppur assolutamente convinto dei miei ragionamenti, del tutto conseguenti alla storia statunitense e al carattere più vero degli americani, benché certo della scarsissima, se non inesistente, competenza della maggior parte dei commentatori, e non solo in Italia, interessati sempre più al folklore, al glamour, alle paillette che alla sostanza, conscio dello schieramento mediatico senza se e senza ma pro Barack Obama. Pur sapendo che dal 1956 ho sempre correttamente previsto il nome della persona destinata ad entrare alla Casa Bianca, consapevole del fatto che abitualmente i sondaggi, anche da noi, sottostimano fortemente l'elettorato di destra. Altresì avvertito della tendenza degli istituti di ricerca operanti nel campo ad accontentare il cliente, ragione per la quale, essendo la maggior parte dei committenti i sondaggi di sinistra, specie i giornali e le TV, è ben difficile che il risultato delle rilevazioni li deluda. Ebbene, ciò malgrado, tanti e tali i colpi ricevuti a ripetizione, di quando in quando, per un istante, sono arrivato a mettere in dubbio la vittoria repubblicana. Subito dopo, però, mi sono detto, e adesso vi dico, John McCain, il peggiore, Michael Huckabee escluso, tra tutti i possibili candidati GOP, il prossimo 4 novembre, vincerà. Mauro Della Porta Raffo, Varese. Spero non vi sia sfuggito lo spot pro-terrorismo di Rai 3, che ha invitato la madre di Zacharias Moussaoui, arrestato e condannato da un tribunale di un paese democratico per terrorismo, e che doveva essere anche lui a bordo degli aerei dell'11 settembre. Ritengo indegno usare il servizio pubblico, da noi pagato, per lasciare questi spazi a persone del genere. Mi chiedo poi cosa c'entri questo argomento in quella trasmissione che parla di viaggi e non di geopolitica. Nessuno dice nulla. E poi sarebbe il governo che controlla tutti i media. Mario, Udine. Se Massimo D'Alema avesse letto qualche buon romanzo dell'Ottocento, saprebbe che il maggiore divertimento delle sguattere nelle cucine dei palazzi era quello di deridere i padroni per un loro difetto fisico. Adolfo Bergamo. Nella proposta della Lega Nord, recepita dal governo, non si parla di classi separate per emarginare gli alunni stranieri, ma si dice chiaramente un'altra cosa e, senza dubbio, si affronta un problema reale. Dopo un test di valutazione, se il bambino o il ragazzo dimostra di non conoscere la lingua italiana, deve seguire lezioni di italiano, per permettergli poi di iniziare a frequentare la scuola, potendo comunicare e imparare come gli altri, senza sentirsi discriminato ed evitando problematiche agli insegnanti e ai compagni di classe. A qualcuno però l'integrazione non piace, perché un immigrato che si integra molto spesso non odia la Lega, non corre con il cappello in mano dai sindacati o da organizzazioni che ci guadagnano e magari non vota centrosinistra. Questo mi ricorda tanto certi politici e altri personaggi che, tenendo il meridione disastrato, hanno sempre avuto il voto e l'ubbidienza garantita. Marco, Brescia. Se Veltroni fosse un po' più furbo, non darebbe il fianco agli estremisti, dicendo che il premier soffia sul fuoco, perché Veltroni lo sa che il decreto Gelmini è giusto, poiché lo appoggia anche Luigi Berlinguer. Se Veltroni si autostimasse di più, non andrebbe a braccetto con Di Pietro. Se Veltroni fosse il premier ombra, appoggerebbe il decreto senza passare per prono al governo, perché a volte un futuro premier può appoggiare le riforme del paese, anche se in questo momento non è il presidente del Consiglio. Anzi, dimostrerebbe senso dello Stato, perché tra 5 anni potrebbe essere premiato per aver contribuito alle riforme. Se Veltroni invece continua a fomentare odio, dimostra che non sa che pesci prendere, e a farfugliare così si dà la zappa sui piedi. Ci vogliono minimo 2 anni di governo per vedere se effettivamente il premier sta facendo gli interessi dell'Italia. Fino ad allora il PD rappresenta la minoranza e manifestare gli si ritorce contro. È bene evitare scontri sociali inutili che fanno solo da sponda agli estremisti. Fiore. Governare è un mestiere difficile e bisogna saperlo fare. E il dilettantismo si vede subito. Berlusconi e la Gelmini dimostrano una volta di più che che nonostante siano al terzo mandato, non sanno governare, non si sanno comportare, non si sanno confrontare. Questa riforma non è poi una vera riforma, ma è una manovra finanziaria embedded, perché già Prodi aveva sfoltito lo sfoltibile, mandando a casa 40.000 professori. Una riforma della scuola fatta contro il parere di tutti i pedagogisti italiani, contro tutta la scuola, a colpi di decreti e con i toni sprezzanti che ogni giorno vengono rilanciati. È sbagliata comunque. Prima si spara col cannone ad alzo zero, poi ci si meraviglia se si occupano le università con la complicità dei rettori. Ma guarda un po'. Emiliano. Le università non vengono mai occupate dai veri studenti. Ci sono professionisti parcheggiati ad hoc, così come lo erano gli scioperanti che picchiettavano fuori dalla Fiat negli anni Ottanta. In questi casi di occupazione, nessuno spiega niente. C'è solo uno che si fa vedere col megafono in mano, che fa sempre molto chic, e sparla contro il governo di turno. La riforma Gelmini ha il solo torto di essere fatta dal governo del demoniaco Berlusconi. Tutto qua. Gianni, Verona. Perché gli studenti non possono entrare in stazione mentre gli ultras li lasciano fare? David. Premetto che a me non è che sia tanto simpatico il Berlusca. Però ben venga se qualcuno dei nostri politici finalmente decide di prendere qualche decisione in questa pattuglia di opportunisti incapaci. Gian Pietro. Sono pienamente in accordo con la decisione di Berlusconi sulle occupazioni delle scuole e delle università. Ai miei tempi, ho 25 anni, quindi non tanto tempo fa, le occupazioni erano veri e propri atti di violenza che impedivano agli studenti, non interessati alla protesta, di seguire le lezioni. Le persone che protestano contro un governo, che definiscono non democratico, non dovrebbero per prime comportarsi in modo democratico? Perché si sentono in diritto di interdire la possibilità di seguire le lezioni? Chi ha dato loro questo diritto? Marco. Neanche Cossiga, quello scritto con la K, ipotizzava interventi di forza all'interno dell'università. Con la forza si attizza solo la violenza. Ci sono momenti nei quali, per causa di forza maggiore, vanno tollerate proteste anche durissime. Paolo Como. Mi fa sorridere l'ascoltatore di Roma che dice che non bisogna soffocare tutto ciò che arriva dal mondo studentesco in quanto, secondo lui, fonte di idee innovative per il paese intero. Ho iniziato la prima elementare nel 73 con un insegnante che arrivava, fresca fresca, dalle grandi idee innovative della fine anni 60. Non abbiamo mai studiato grammatica, storia o matematica. Ci siamo occupati, per anni, degli usi e dei costumi dei boscimani del Kalahari, delle popolazioni amazzoniche, delle attività manuali con la carta pesta. Arrivato in prima media, mi è sembrato di sbattere contro un muro. 3 anni intensi con una professoressa di italiano e storia, fortunatamente tradizionalista, e la fortuna di avere la matematica nel sangue mi hanno fatto recuperare un po'. Poi le superiori in un istituto per periti in telecomunicazioni, dove non ho perso un'ora di lezione in tutti e 5 gli anni, nonostante gli scioperi. Lo studio duro e la gran mole di lavoro hanno fatto sì che una volta arrivato nel mondo del lavoro non ho trovato nessuna difficoltà. Ora, dopo 20 anni di lavoro autonomo, avendo ottenuto risultati che da lavoratore dalle 9 alle 17 non avrei potuto ottenere, mi ritrovo a dover sopportare l'invidia di quelle stesse persone dalle grandi idee innovative per cui sono un privilegiato. Quello che più mi spaventa dell'Italia è questo: impegnarsi e cercare di emergere viene visto come un difetto. I nostri giovani si stanno appiattendo su idee da pecoroni. Basta un tizio col megafono che grida fuori da scuola per avere un gregge di pecore che lo seguono. Quanti saranno poi quelli che veramente sanno di cosa si sta parlando? Stefano. Non accetto che un presidente del Consiglio usi quei toni nei confronti del proprio paese e dei giovani, che sono il futuro e che sono lì a fare le loro prime esperienze di protesta. Non è questa la risposta che dovrebbe dare chi governa. Luigi. Durante il governo D'Alema, la polizia sgomberò con la forza diversi istituti superiori. E allora, cari smemorati, Luca. Ma vogliamo proprio fare un altro 68? Non ne abbiamo avuto abbastanza? Chi soffia sul fuoco? Mi sembra Veltroni, purtroppo. Filippo. I troiani, non volendo ascoltare né Cassandra né Laocoonte, aprirono all'ingannevole dono del cavallo greco e furono distrutti. I nostri governanti, a tutti i livelli, non hanno nessuna intenzione di tagliare veramente le tasse, perché vorrebbe dire meno Stato, quindi meno potere, quindi meno possibilità di fare i propri interessi personali e clientelari. Notate come la famigerata casta si trinceri dietro il bene futuro che verrà. Sempre futuro, come ai tempi di quando doveva venire il paradiso sovietico, a seguito dei pesanti sacrifici di oggi, fatti ovviamente da noi sudditi e non da loro, o dietro valori etici come la famiglia. Ma quale? Quella allargata di chi si associa per non pagare il ticket? Il lavoro? Ma quale? Quello improduttivo dei fannulloni o dei burocrati in brattacarte? I pensionati? Ma quali? Quelli che vogliono essere in vacanza tutto l'anno con l'auto per viaggiare e magari la barchetta per andare a pescare? La verità non si può nascondere a lungo. L'economia sta gridando «sto morendo», soffocata dalla pressione fiscale. Sono in arrivo una sfilza di aumenti pesantissimi per molti. Eppure, salvo ritocchi o arrangiamenti, il governo, pur di conservare la popolarità dei lucignoli, non ha il coraggio di voltare veramente pagina. Mi fa venir da ridere chi pensa di combattere gli aumenti riducendo la filiera. Possibile che il risveglio delle economie di Cina, India, paesi arabi e anche della Russia siano praticamente ignorate. Poveri, ma veramente poveri noi, siamo caduti dalla padella alla brace. Ferdinando. Caro Ferdinando, lei tocca il tema delle tasse, un tema in cui è molto alta la sensibilità sociale e la tensione politica. Le do ragione, in Italia il carico fiscale è molto alto, tanto alto da costituire un ostacolo alla crescita frenando i consumi e limitando la competitività delle imprese. Lei ha ragione anche quando sottolinea che la riduzione delle imposte costringerebbe lo Stato a una politica di cura dimagrante che potrebbe tradursi veramente in meno potere e meno possibilità di compiere scelte clientelari e di finanziare le rendite di posizione. Io da tempo sto conducendo per quanto mi è possibile una battaglia per l'abolizione delle province. Ma stiamo attenti a non esagerare con l'antipolitica. Proprio in questi giorni l'opposizione scende in piazza contro i tagli alla spesa pubblica, con il clamoroso caso della scuola e dell'università. Ebbene, sono convinto che proprio la scuola e l'università siano gli ambiti in cui sia necessario non ridurre la spesa, migliorando in ogni modo l'efficienza del sistema educativo. Ma allora bisogna anche proporre tagli alternativi, e ce ne sarebbero tanti da fare ai posti di spesa e di potere. Comunque, ripeto, non esageriamo con l'antipolitica. Dobbiamo avere il coraggio di continuare a pensare che è sempre meglio la peggiore delle democrazie alla migliore delle dittature. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.